Hey, Mr. DJ, vogliamo ballare e cantare con te. Hey, Mr. DJ, facci entrare nel tuo club. Hey, Mr. DJ.